quelli di Excel. Adesso voglio fare un sistema d'antenna un po' più evoluto, allora, vediamo un po' come va a finire. Come multimanda cosa è una dispone? No, una... aspetta, chi la fa con l'antenna? Ho preso la GBC, un'ultima antenna, non è grandissima, simile alla Discone, con il radio tipo una mini Grand Prix, però tutta in acciaio inossidabile, parte centrale in presso fusione di ottone cromato, proprio costruita in materiali all'avanguardia, diciamo, ultimi, tutta, non c'è un pezzo in corso, in ferro, in alluminio, cose che possono, tutta completamente in acciaio inossidabile, a parte centrale, dove fissa le radialinee in corso. Però ti sto dicendo, c'è una resa eccezionale, su tutte le frequenze, faccio da... aspetta quanto arriva, mi sembra scende dai 20 o 18 mega fino a 1300, l'ho utilizzata anche per altre cose, dice che funziona più che bene. Si può utilizzare anche la 27, infatti c'erano due tipi di quelle antenne, quella che trasmette dai 50 MHz in su, questa invece trasmette mi sembra dai 20 MHz, una cosa del genere, ho preso proprio quella lì. Quella unica, prenderò quella, farò quella unica. fluida, utilizzando dei tubi molto leggeri, infatti per metterla motorizzata deve essere molto leggera. Faccio la struttura, c'è un progetto americano, la struttura utilizzando dei tubi, quelli di tubi di impianti elettrici, cioè presenti con l'innese, eccetera, eccetera. Per cui non devi neanche fare grossissime modifiche, e poi usi il filo, il classico filo da 2 metri. Di sistema, però quello è più elegante perché utilizzi direttamente le connessioni, hanno quei innesti AT a 5 punti e ti può fare tutto un unico blocco anziché fare delle costruzioni artigianali, io utilizzi proprio io mi levo la sopra, però un attimino c'è la bambina, l'altra non voglio capire, dammi un attimino, scusami cazzo, salve. Thank you. posto. Guarda, adesso provo a salvare il mio. Thank you. come si vede tu? Ora sono anche salendo tutta la terra. E già ne non ho sentito. Ma si era poco fa. E sarà per entrare, penso. usate un paio, una, due sono, le hanno usate una volta per fare una prova e basta, comunque dice che sono state misurate ed hanno la stessa capienza di una valvola nuova. E poi una è nuova, però è una solo, ed è una 40 euro la vogliono, quella lì la danno di sicuro. Le altre due sono da giocare a base, te ne manca una. 519, te lo sto dicendo, le 509 non so se ce li ha, prova a chiamare da Tecnocomunicazioni, magari ce li ha. Ok, ma io domani posso anche chiamare, però che siano, perché anche la stessa azienda che ce ne ha sempre, le 519, solo che ce ne va a fare una modifica sull'alimentazione, quello lì è il collo, e io voglio mettere la nota originale senza toccare altro. Allora, dice che con le 519 ti dà anche prima. Le 519 vanno bene anche per quello che ho io qua. Infatti me le devo comprare due 519 e non c'è da fare nessuna modifica. Addirittura le 509 sono quelle più scarsine. Se tu metti le 519 danno più vate pure. Ha ha ha. Beh, comunque informati da Tecnocomunicazione, se sei là te le fai mandare, in 3 giorni ti arrivano i capelli. Thank you. Ministero delle Tecnocomunicazioni, Caprina. Di mano, che parte ce l'hai? 02 48 70 6291. Che non fa, se non pensa nulla, che bravo variare di scrivania, che inutile, che mi vuole, aspettate un attimo, vai, fate girare. Ma ce l'hai il catalogo di cose, dai? Però il catalogo della devo controllare una cosa, ma fai che appagata avanti, che catalogo ti serve? Che te? Quello della internet che piace oggi, cioè quello ti serve? Dopo me lo presti sabato, là che devo controllare una cosa. Thank you. valvole lineari, le valvole. Quindi i baracchini danno la voce calda alle valvole, però hanno sempre il problema di trovare, qui non c'è acciappanuta. Però farò dare, c'è la vuole. Però fa anche il preamplificatore. manca, mi va, io questo qui me lo metto a posto e lo uso solo ed esclusivamente per fare gli ex, basta, e lo userò solo in estate. Che cosa, quello lì? Sì, a te ne parla. Ma io me ne vedo la nome. No, me lo compro nuovo, Pierpa, non ti offendere, ma me lo compro nuovo. Nuovo di zecca. Compro nuovo? Ne ho un prezzo irrisorio, Cosa? Un prezzo irrisorio, era. 30 euro. Vabbè. Allora già te lo compro. Tutto funziona male. Se mai che se ne sono gnali qua, gnali. Vabbè, portamelo, porto. No, vabbè, se c'è la possibilità non mi dispiace prendere. Io c'ho il problema. Sbagliato. Yeah. Carlino, avanti. Io già sono qui già, ti sto ascoltando con piacere. Ma Falchetto, c'è voce, Falchetto. Ripeti allora, forse ho capito perché. Ora è entrato al lavoro, non lo so. Sì, vabbè, il lavoro è entrato, ma entrava sempre la stessa. Ma no, forse stai stupendo con la signora al telefono. Ah, Sarola. Perché praticamente l'altro giorno è andato a sapere a portare quell'antenna che mi ha prestato l'amico di Alessio. E ha sbagliato il campanello, sono andato a quella di su, gli ha detto di avvisarlo che gli stava disturbando il telefono. Pure io mi vedo problemi. Ma la signora c'ha un Converse di quelli che ha preso insieme col puntino della lavatrice e gli ha disturbo. Lui dovrebbe prima di tutto interessare che l'apparecchio già e poi se con la sua gli ricomprasse il telefono è ma facile ma non lo è, non si è sentito nemmeno tornato. Tu dici non è facile, l'ho fatto io, ma io mi ha detto di comprarsi un telefono è da che credito. Penso che di quello lì ce l'aveva la vent'anni e funzionava sempre bene, beh, io di quel tizio ero molto bravo, non lo devo, deciso e conciso, mi sto filmando già. Chi? Io mi sto filmando. Ah, te lo devi mandare, mi fa su internet. No, no, mi sto filmando, così, radio, adesso mi abbasso il pantalone e mi filmo anche la guavera. E poi lo mando su Facebook. A noi. Cristina però. Beh, sembra non fare le palle alla gente. Comunque avrei continuato, non mi ha capito niente. Ma è come se non vuole vaglia a Caparito. Ma è con... Laura, come sa va? E allora questo telefono? Ci siamo pigliati dopo aver visto il telefono, mi ha fatto assai a me. Vedi già. Ma? Buonasera Gianni, buonasera Pierpaolo, buonasera Antonio, Capri 2 e Natalino. Avanti per i saluti, una alla volta mi raccomando, Mia, vedi che ci stava ascoltando, non finito delle due. C'ha le orecchie lunghe questo Falchetto, c'ha le orecchie lunghe. Ciao Falchetto, buonasera, lo sai mi sono comprato due spicci col perizoma e le ho passato? Oh, Antonio, sentito te. No, Antonio non gliel'ho detto ancora, mai già glielo dico. Lui, era guasto, era guasto Antonio, era. Sto sempre qua. Filmato quando sei arrivato, Natalino, su internet. Ho fatto il filmato. Sei arrivato a 9:10. Ma c'era di tradirò? Sto filmando il barracchino mentre funziona. 9:10. E chi io? Sono arrivato a 9:10. Ma quando fai così io ti temo, Gianni, vai. Che dovevo fare? Ma piantati dove? Dove state mettendo? Che cosa? Chi è che ha piantato qualcosa? Le palle? A me mi pare che Gianni sia dormito, mi pare che sia su niente. Sveglia che cammina! Gianni il caldo, io! Ma va, non ci posso credere, va! Io so! mettiamo lo stereo tutto volume, ti disturbiamo. Gava gava, ciao Antonio. Thank you. comunicazioni e te lo fai dire a vedere se costano così. Cara piccina, 70 euro di via ci la pone tipo su posta, mi. Quelle cose, e quindi com'era, un ottimo stato.

subito. Appena che lo sento dall'apparecchio che sento a lui. Ciao, buonanotte. Buonanotte, capri 2, 8.